I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Parlando di economia globale, ci sono due fatti che meritano attenzione. Da un lato l'andamento dei tassi sui titoli di Stato e dall'altro il livello dei prezzi al consumo, l'inflazione. Per i titoli di Stato l'elemento nuovo è che da alcuni giorni non rallenta, e vedremo cosa accadrà questa settimana, l'ondata di vendita che ha colpito i titoli governativi. L'effetto è che i rendimenti dei principali bond di Stato, parliamo dei tassi a 10 anni, sono in rialzo, quindi per capirci stanno aumentando i tassi dei bund decennali tedeschi e anche quelli dei BTP decennali italiani. Naturalmente ricordiamo che i tassi attuali sono a livelli molto molto bassi e quindi questa inversione di tendenza per il momento non rappresenta un pericolo, non ha una connotazione negativa. Ma qui veniamo all'altro aspetto, perché i rendimenti stanno calando per il fatto che nelle ultime settimane sono risalite le aspettative di inflazione. Un esempio: in Germania la stima dell'indice dei prezzi al consumo mostra una crescita su base annua dello 0,8% ai massimi da ottobre 2014. Segno che da un lato l'aumento del prezzo del petrolio e dall'altro le politiche espansive della BCE stanno spingendo all'insù l'indice dei prezzi al consumo. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Intanto un primo scontro lo avremo tra poche ore, quando l'Istat rilascerà il dato sull'inflazione italiana di ottobre, che nell'ultima rilevazione di settembre era rimasta inchiodata a un minimo più 0,1% su base annua. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Se l'Europa sembra dare un segnale di seppur piccolo risveglio dell'inflazione, anche se in gran parte guidato dall'aumento del prezzo del petrolio, l'Italia sembra purtroppo tornare indietro. Dopo aver segnato a settembre un più 0,1% tendenziale, vale a dire sull'anno, a ottobre nuova doccia fredda con un dato che riporta quello stesso indicatore nell'area della deflazione a meno 0,1%. Questo conferma la situazione di delicata e lenta fase di ripresa dell'economia che non riesce a diventare un vero e proprio decollo. Anzi, piuttosto sembra che gli italiani abbiano ancora paura del futuro, che è il dato emozionale contenuto in genere nell'andamento deflattivo ed è fonte di pessimismo e di negativa influenza sulle stesse aspettative. Sembra allontanarsi così anche l'obiettivo dell'1% di inflazione a fine anno e ciò preoccupa anche gli operatori che cominciano a nutrire dubbi su una ripresa decisa dei consumi a Natale. Non c'è solo la volatilità del prezzo del petrolio, ma anche un contributo negativo dei cosiddetti alimentari non lavorati e dei consumi per servizi ricreativi e culturali, ad esempio. Il cosiddetto carrello della spesa registra una diminuzione dello 0,3% e questo dato ha bruciato in un colpo l'ottimismo parziale che era sorto con la variazione zero, che sembrava prefigurare a settembre l'inizio di un cambio di passo strutturale. La strada è ancora lunga, evidentemente, non resta che sperare negli effetti benefici di una manovra orientata forse per la prima volta in modo massiccio agli investimenti, che è l'unica strada da battere per trasformare la ripresa dell'economia in una vera e propria ripartenza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.